sta, un bel bagaglio. Non so, se mi avessi visto le fatte prendere io, 48 euro io le ho pagate per la macchina mia. Allora, sono quelle lunghe, lunghe, mie, mie. Le conosco, le ho cambiate quando? 2 settimane fa a mio cugino. Noi ci fanno il 50% di sconto su quella roba. Ah, figurati. Io non ho fatto perché che mi ha fatto rumore. E allora se non compromette gli stili, ho subito cambiato, sì. Non bisogna arrivare, se no ci piangono, ci pagano anche i dischi e tutti dobbiamo pagare i dischi costano 126 euro l'uno. Figura, perché sono quelli dubbi? E sono autoventilati quelli, li ho cambiati a mio cugino, io basta cambiare, li ho cambiato le pastiglie, e poi erano troppo rovinati i dischi e li ha mangiati. Bisogna stare attenti, perché a me non mi piace. Mi dico, mi ha fermato e mi ha fatto il rumore, capito? Forse sono le pastiglie adesso. E allora stamattina ho svantato e ho visto che era 0 più. Chi è entrato adesso? Senti. Hola, ma sto uscendo? Già stai uscendo. Natalino! Sei finito! Oia! Avvisami quando fai queste cose! E avvisami quando fai queste cose! No, tu dimmi che c'è Natalino qua! E ti ha avvisato lui! E da dove non me l'ha dato? Non è che non te l'ha dato, sei andato a dire che te l'avevo detto io, siccome io quando mando qualcuno faccio una telefonata, se non mi avvisi. Ma io ho capito là, vabbè, io lo sapevi che c'era quel problema lì, no tu, io pensavo che abbozzavi. Ah, non pensavo nulla perché io là, loro mi fatturano tutto, e loro non danno perché se te la lava, quindi quella cosa lì non è fai altri. Cioè, se la consegniamo e ti diceva, non ho niente, lo devo fatturare a lui. Hai capito come? Quindi se non c'è una mia autorizzazione, lì non ti danno nulla. Quello che sono andato l'altro giorno mi ho preso un semiaccio intero contro tuo. Grazie. 5 e mezza, sì. Non venire più tardi delle 5 che devo uscire, devo fare roba. Chiappa, non mi fa riposare niente, vabbè, mi riposare, sono letto, sono qui, c'eravamo a Tosburgo oggi, sono tutto il mondo abusato in camion, cazzo mi va di male, biodichina, senza aver fatto nulla che travagliato, vescio Maria Gatti. E io ce la fiamma rossa, però guarda, ci ho fatto un paio di una macchina, guarda, con la fiamma qui, tutti gli sguardi, tocca brava, guarda che per te il rimedio c'è, vieni da me, ti do un tubo dalla misura che vuoi e ti cade secchio. No, non c'è bisogno di tubo, no. Oh, Antonio. Ciao Marietto! Ciao Clara, qui oggi sono tutti forzuti, tutti quanti vogliono crepare. Allora è molto importante che non avremo più farina. Avanti! Avanti che ha chiamato Roberto! No, Antonio sto chiamando! Allora, a te l'immaginese Mario, che se non vuoi permetti di bastarmi, che con quel gatto sto dicendo, se la musa la so che sono piccolina. Scusate, eccolo, tu sei grande, Arri, tu sei grande, perché ti puoi fare le antenne e li puoi calpestare con le antenne, buttare le antenne, vai a vedere, metterli a tutti. Bastaria, hai finito? Io già ho finito già, e tu finito hai, eh? Bello me, e ti faccio parlare con muro. E finito ci devo rompere i coglioni, bello me, eh? E tu finito hai, eh? O ti faccio parlare con muro. O ti faccio schiattare, bello me, eh? Il tuo numero, 243364, 979243364. Adesso vengo io e mi sento pantaloni a mamma tua. Oh, Antonio! Comunque va aggiustato qua il baracchino, Antonio, il Midland. Ah, Luca? Sì, cosa stai uscendo adesso? Col Mobicom, quello di Antonio. Guarda quello che ti hai preso nuovo. Sì, è uguale identico, spiccicato, preciso, uguale. Ciao, cioè, questo qua è, sembra più nuovo del mio. Fino a 10 euro devi sapere il filastro, Antonio, che te ne hai visto. Cosa? Non ti conviene? Ah vai, che... No. Il mio non c'ha niente, il mobito. Sicuramente, deve controllare. Ma è una cazzata. Ah, se lo mette sotto strumentazione, pure lo vede lui cosa fare. E il Midland me l'ha messo a posto, esce bene anche quel baracchino. Ma normale ho preparato? Normale. Rame, preparate, che cosa? Non è che la cosa prepararla. Aspettate un attimo, si devo vedere in 40, cos'è Robè? L'avevo messa a pilastro, non gliel'hai messa. No, il carburatore del 28 l'ho messo. Era la vita della macchina di Mario. Cosa non tu cammina? Non ce n'è. Cammina un bel. Si fa sentire. Riprende Mario. Sabato guarda, allora ti credi che sia una macchina a avere il baracchino preparato, la corsa. Va bene, anda. E tu quando ti arriva l'apparato, cerchi di darti una calmata, non è che sei chicca a tutti, eh. A chi vedi mai dire se ne apre buona tela a lui. L'animale ha lampadina mia, l'antenna, è più facile che ne butto la vostra. Mario, non mi chiamavi se una vasellina. Togli attento, Edu. Mario, ma non bisogna la farmi l'antenna, l'ho ancora portato da in oggi e mi brucia tutto. Non provocate, non toccate il cane che dorme. Via, dopo guardo il cane. Che c'è di lungo, vai! Ma persone. Sempre. Geometra Claudio, lo sai. Tu sei un geometro, ma non sei professore. Oh, Antu, io sono portato 21, a soccorre. Oh, la pari, tu mi stai mirando la pazienza, eh. Ma Ho capito, io non volevo essere Ma ho capito, non sono tonto. Non c'è problema, non c'è problema. Anche lui per questa qui è tutto, figurati, non c'è problema. E niente, è lì comunque, dai. Vabbè, allora alle 6:15 quando esco dal lavoro passo da Franco, là. No, pagava, che marrocica, pagava, sto segnale, lì va a bomba, no, pagava. A sinistra, Luca, a sinistra. Ah, io sento un po' di silenzio. A quell'ora, aspettate, ci sono anche io, Mario, ci sentiamo un po', grazie Roberto. Papà Gappa, io mi sacco un attimo che mi devo fare il caffè, se mi tocca andare al lavoro senza caffè, là. Riprendo fra un attimo, là. No, chi dorsi, Mario. Senti, sì, sei piccolo, piccolo, ma dove sei? Sono una donna piccolina. Dicendo se già sei salito di segnale, se ti ho sentito, ma prima di picco c'è un figlio qualche punto scuro, no? E noi possiamo andare alla corsa della taglia e si sentiti da te. Vabbè, che su un cavolo di macchina un po' ugani molto ricezione. Vabbè, certo, che cosa tu con questa piccolina, con l'antenna piccola? Basta. C'è già qualcosa, c'è a bancali tu adesso? No, non capisco lui. Ha detto che c'è a bancali e lo stai ascoltando con l'antenna piccola, anche se arriva a basso, va bene lo stesso, cava. Andiamo bene, andiamo. E a me Roberto mi ascolti, basso lo stesso. Magari non basta, segnalo su 3-4. La radio è bassa perché non so se lo macchino io, se no ti avrei spaccato le casse dalla macchina. Che fischio natalino, eh? Luca, Aravi. Aspetta, volevi dirgli una cosa, se non mi sento faccio la prova con l'altra, a Roberto Meccanico, con l'altra antenna vedi come mi ascolta. Che cambia, allora tu lo chiami e ti dà controllo, no? Tra 10 minuti che sto facendo il lavoro, un attimo. Eia. Ma tra 10 minuti penso che già andando. Ma che gara devo entrare? Io mezzo. Eia. Ma no, oggi è presto, Roberto. Noi siamo presto. Uscite tardi. 7:15. Sì. Vabbè, noi siamo artigiani, travagliamo a colto nostro. Ma tu non fa un cazzo, la travagliare ragazzi, ma te. Senza la gustissima. No. Allora, questo Roberto, tra l'ufficio e Bruno, la figlia. Non è solo così. Cosa Natali? Tra l'ufficio e Bruno, è il capezzone lui. E ha messo la bizzarra, ma se ne scende. Oh, vabbè, fa bene, non è che fa male. Allora, vabbè, lì ci sei tu, tuo fratello e tuo padre, lui è. Caffa. Ma tu più grande o più piccolo di te? Piccolo. Ehi, andava. Cava. Ma Gianni, non sentissi? Non sta bene Gianni. Non so, sta all'ascolto. Gianni! Gianni, no, più rumo! Sicuramente, buono, non c'è. Allora so. Antonio Nostro. Eh? Antonio Riserva. A tu. Antonio Piero. Ah, lui è Riserva, è Piero, ce l'ho io nella macchina. Ma cosa Antonio Riserva? Chi l'ha messo? Lui se l'ha scelto e gli avete messo voi. L'hanno messo perché conosceva la 127, mi pare. Mi sembra di aver capito così che era sempre a Riserva con la macchina. E l'ha ribucato in Riserva. Sarà ben rida, quindi. Si un bel pagosa. La Riserva di Belvanda. Ma questo che faccio pure Riserva di vino. Belvanda, che non ho fatto si cosa. Cava Rossi, ti sei venuto alle signore di Gino, era bomba, cava. E beh, Luca, con nessuno hai parlato in distanza. Eh? A lunga distanza, con nessuno hai parlato, io mi sento in Spagna, a tutti i rimbalzi. Sì, qualcosa l'ha sentito, c'era lo spagnolo anche sul dito, ci ho chiamato, non so se... Vabbè, l'ho chiamato e poi il tio mi ha fatto la pernacchia, vai Gagliarzuia. Non lavorano su altri canali, io ho visto su 34 un bel niente. Non ne ho idea. ne ho proprio idea. Allora sei subito in base, Robè, eh? Stazione base, ma mo morato, Sto buono, dove stai? Vabbè, ma non sa mai nulla adatto. Vediamo che vada bene, che sia tutto a posto, che non c'è un bidone. Io ti dico che è un radiamatore questo che ce l'aveva. Ma però fatte, mette un po'. La situazione com'è, no? Se no li mettete il coso, li fate il... come cavolo si chiama lì, la CB. Ma no, se non so vedere con la base, non hai capito, glielo rispediamo. Eh beh, è minimo. Se no li mettete il coso, come si chiama? È bella... L'importante è che mi vuole andare di là. Eh beh, mi vuole tornare solo, denunciate e poi passa a casa di lui. Mica li passi tu. Ma abbiamo Luca, lei scusa, Claudio c'ha tutti i numeri attivi, dove abita, il numero di telefono e tutto, già non puoi sbagliare. Beh, l'ha fatto bene. Ha fatto più che bene a prendere tutti i suoi dati. Cava cava. Ma c'è gente lonta a fare lì su eBay, dicono. Perché sai, lì è tutto dove abita. Basta entrare in internet e sai tutto di lui. Vita, morte e miracoli. Chiamatore questo, Natale, lo sai? Io c'ho tutto. Io va, che c'è un programma che lo becco anche senza entrare in internet. No, ma che non sia una persona seria. Come fa una... a guardarsi per 100 euro? Infatti. Però c'è gente, io conosco due persone che l'hanno bruciate. Uno 500 euro e l'altro 59 euro. Quindi metto il 100%, un sacco di come si chiama, di istruzioni avevano fatto, sembrava gente tranquilla e la rifugisti. Figurati. Ma no, io non compro mai a quelle parti, assolutamente. Infatti mi sto vendendo questo apparecchio, ma tu come che vai al negozio e lo compri, nuovo. Ma nuovo, non è stato mai toccato da nessuno, è normale, tranquillo. Ed è un signor apparato, non è certo il Galaxy, no. Questo è il Galaxy, se lo frega nel biglietto. E noi lo vamo a Natale. Ma io ho anche il microfono dal tavolo. E quel microfono da tavolo che ho io è un signor microfono. Ma lo sai come è? La tua civendente? 200, l'ha parlato il microfono, però l'apparato è nuovo, bisbecca, nuovo di bisbecca, e mi dispiace darlo perché non è certo un Galaxy, è tutto diverso. E io, ma ci cavali anche, ti dico l'apparecchio. E come il Galaxy, uguale. A quel simetro c'ha pure. No, non so, il frequentimetro, però è meglio di Galaxy a 100 megavolti. Come te l'hai preso, arrivano se vuoi che dovete comprare. Però io non lo stavo lavorando, vieni qui a telefonare a lui e lo do a lui. Lo guardo un altro, perché lui ce l'aveva quello lì, no? E lo conosce bene, quell'apparecchio, non è? Ma di quanto fate ciò? 10 AM e 25 SSB. Volabili sono. Cioè, fatte regolabili, Natale. Ah, sì, so. Chi è una bomba, l'apparecchio. Dani, quanti ne ha? Come? Quanti canali ha? Come il Galaxy. 5 bando. Quindi è un apparecchio di un certo livello, non è un giocattolo. Non è un giocattolo, no. Anzi, è regalato. Con il microfono a tavolo. È una bomba. Ma veicolare, Natale, la base. No, veicolare, però è un demonio, uso un è tipo quello che c'è anche dato a Franco, però quello che va a Franco è come che sia un Galaxy uguale, questo c'è i filtri diversi, non prende colpi, è una cosa allucinante, anche il livello di modulazione, quando tu schiacci, no, c'è un pulsante, schiacci e vedi e parli, e ti dice quanto stai essendo di radio. Andava. Sono un po' caruccio 200 euro, Natale, guarda, tu mi dirai, è nuovo, però insomma, vabbè, è da vedere e poi valutare se ne vale la pena o meno. Ma non sai quanto costa nuovo? Un Sì, americano, mi non è un giocattolo. Signore, un attimo. Dimmi, Robert. Luca, la prima sono andato a travagliare. Ci sentiamo magari stasera, stanotte. Ciao a tutti e a tutti quelli che stanno ascoltando. A stasera, ciao. Ciao, Robert. Ciao, Robert, ciao, buon lavoro. Ciao, ciao. La Cari, si può, dai. Non si può sentire adesso, no? Sì, non l'ho sentito un bel di volte. Sembrava che avevo quello grande, invece era quello piccolo. Era anche studentesimo, studentesimo. Sì, sono due volte, sono rientrato, un ghis. Cosa dicevo? Aspetta, mi sta chiamando mio marito. Ah, tu? Un attimo. E buco, cosa vuoi dire?